Storiacce d'autore, a cura di Raffaella Calandra, in collaborazione con Milano Nera. Uno scrittore, un fatto vero e un testo composto proprio per noi. Ogni domenica in queste storiacce la cronaca la ascolterete dalla voce e dalla penna di un autore, sempre a partire da un fatto vero. Capurso, provincia di Bari, 20 dicembre 2003. Uccisa una ragazza di 25 anni, Maria Rita Valerio. Ancora oggi, nessuna chiarezza. Ma, oh ma, per piacere, la devi finire di piangere tutte le notti. Non mi fai dormire nemmeno qui dove è tutto silenzio e solo il pianto tuo si sente la sera, forte e disperato, come quello dei lupi. E lo so che c'è ragione, che quella figlia sola tenevi e te l'hanno portata via di mala maniera. Le figlie femmine sono la ricchezza della casa, dicevi sempre. Com'eri buona, ma, come sei bella, ma, pure adesso che non soli di più. Io poi te lo dicevo che non dovevi venire quel giorno, non lo dovevi vedere come mi aveva combinata quel disgraziato. E ti gridavo di non venire, gridavo forte, ma tu non mi potevi sentire. Ti vedevo piegata in due a piangere, a farmi le carezze, a baciarmi le ferite, come la Madonna con Gesù Cristo morto. Chi è? Gridavi. Maria Ri, chi è stato a te? Volevi sapere chi era quel maledetto che in quella notte di stelle gelate mi ammazzò senza pietà e mi spinse la faccia nel terreno per ore e ore, in mezzo al piscio dei gatti e alla bava delle lumache. Te le ricordi le lumache, ma? Me le preparavi quando ero piccolina, dopo certi pomeriggi che pioveva tutto il tempo e noi uscivamo, tu col secchio di alluminio e io con gli stivali di gomma rossa, e poi riempivi la casa di un odore forte di aglio, di prezzemolo e di peperoncino. Come mi piacevano le cose che cucinavi tu, le frittelle, la pasta al forno, le recchitedde. Sola ero quella notte, sola, io e lui, senza nessuno che mi potesse sentire, senza io che io tenessi una colpa. Ma tu, per favore, non piangere più, hai capito? Ma non piangere, mi raccomando. Anche se mi ha uccisa, io non avevo fatto niente, ti giuro. E poi un'altra cosa ti voglio dire: non devi credere alle parole che ti buttano dietro le bizzocche al mercato. Non è vero, non è vero niente quello che dicono. Io ero brava, quella brava figlia che volevi tu, anche se tenevo qualche amico ricchione e mi pittavo le unghie di viola. E che fa? Mica è peccato quello. Mica sta scritto da qualche parte che non si deve fare. Io non volevo morire, ma mi volevo sposare. Mi ero pure diplomata, avevo trovato un lavoro e stavo mettendo qualche soldo da parte. Mi volevo sposare al santuario, come volevi tu, con l'abito bianco, come quelli belli che stanno nelle vetrine del centro. Volevo tanti bambini e la domenica l'odore del ragù per tutta la casa, come quello che fai tu, che pure da qui, in certi giorni di maestrale, io ancora lo riesco a sentire. Ma un'altra cosa ti voglio dire, non devi piangere tutte le volte che apri il comò con i cassetti pieni del corredo mio. Anni e anni sei stata, lo so, con la schiena curva a ricamare le pezze di lino. E a che mi serve adesso? Sto qua e non tengo bisogno di niente. Però tu non piangere più, fammi il piacere, che un giorno quel disgraziato lo troveranno, vedrai. Te la farà la grazia la Madonna del Pozzo, perché tu non lo sai, ma adesso la Madonna a Capurso sei tu. Gabriella Genisi, in libreria con Giallo Ciliegia, edito da Sonzogno, 224 pagine, 17 euro. Per riascoltare e scaricare le storiacce d'autore come le vecchie storiacce, www.radio24.it nella sezione podcast oppure direttamente su iTunes. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce e sul nostro blog. Ciao a tutti, al prossimo weekend!